English Bit di Giulia Crivelli. But Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department just blamed him. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi. Il Ministero della Giustizia ha appena accusato lui. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate ai rapporti dell'amministrazione guidata da Donald Trump e la Russia. L'espressione che ci interessa è everyone but, che in italiano traduciamo tutti tranne. Espressioni simili sono what could we do but forgive her? Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but trouble with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto. Nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto a Roma per 10 anni. Una curiosità. Qualcuno forse ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori più volte, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento della loro città, che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era la cassa nel negozio Everything But The Girl. Notiamo poi il false print department, che in America è usato per indicare i ministeri Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, della Salute, Treasury Department, eccetera. Guardiamo infine il verbo to blame, regolare, to blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o a qualcosa, e si può usare sia come verbo attivo che passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa prendersi la colpa, mentre blame game, purtroppo intraducibile, significa accusarsi a vicenda, letteralmente fare il gioco delle accuse.